Un pomo che so ti pialeni, se inchiro rico son io ni, son per gioia, sai chi ne rico solo io. Terima kasih.